Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori di Blu Radio Veneto sulle frequenze di questa emittente interdiocesana che propone appunto in questo momento un programma fuori di noi dedicato al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Ai microfoni, ahimè, ancora da solo, solo soletto, perché Anna l'altra volta era occupata e questa settimana invece è ammalata. La salutiamo, Anna Zampieri dell'Azione Cattolica della CR Diocesana di Treviso, che ci ha accompagnato e che ci accompagna appunto in questa trasmissione, raccontando anche le belle cose che l'Azione Cattolica realizza all'interno della diocesi di Treviso. Allora, dopo aver salutato Anna, salutiamo anche la regia di Edi Daici, che ci accompagna in questo contenitore che vuole raccontare il variegato mondo degli oratori noi. Oratori noi che sono in a livello nazionale 1350. Abbiamo dei numeri belli freschi proprio perché è periodo anche di assemblee annuali, anche c'è stata l'assemblea nazionale, quindi sono stati praticamente comunicati ufficialmente, diciamo, i numeri di Noi Associazione. Allora, è presente in 14 regioni e 43 province, ci sono 25 associazioni territoriali, ci sono 2 coordinamenti regionali in Lombardia e in Veneto. Come dicevo prima, ci sono 1350 circoli oratori e 350.000 tesserati. Ma dov'è la sede nazionale di Noi Associazione? Non è tanto distante da dove vi stiamo parlando, perché è in via Seminario 8 37 129 a Verona. Se volete informazioni sull'associazione, se volete conoscere come un oratorio diventa oratorio noi, basta appunto mandare un'email a segreteria@noiassociazione.it e lì appunto verrà un po' spiegato il procedimento, verranno contattati i responsabili che vi daranno tutte le indicazioni utili. Ma cosa fa Noi Associazione? Andate allora nel sito www.noiassociazione.it e ringraziamo anche e salutiamo anche gli altri 2 comitati territoriali, Padova e Venezia, che insieme a Treviso collaborano per la realizzazione di questo programma Fuori di Noi, che va in onda ogni settimana al sabato alle ore 14 e domenica alle 12.30. Se volete mandarci un'email a fuoridinoi@libero.it, oppure potete inviare un messaggio, un'informazione, una richiesta al 320-614-6964. Trasmissione che vuole raccontare appunto cosa di bello bolle in pentola in tutti questi oratori. E noi vediamo che un oratorio, un circolo, un patronato all'interno di una comunità è segno sempre di vivacità, soprattutto in questo periodo che è il periodo appunto di maggio, dove stanno partendo già le organizzazioni dei rispettivi Grest. L'abbiamo già detto la scorsa volta, abbiamo già dedicato un paio di puntate sulla storia principale, il sussidio 2012 che ha il nome Stella e che avrà come protagonista appunto questa ragazza che si ispira, diciamo, alla figura di Ester, figura biblica di Ester. Abbiamo già raccontato attraverso le parole la scorsa settimana di Don Dario Magro quali sono le finalità, quali sono, diciamo, anche gli obiettivi, quali sono le convenzioni, ma oggi magari cercheremo di addentrarci anche con altri 2 piccoli aspetti, diciamo, di questa meravigliosa avventura che è il Grest. Per qualsiasi altra informazione però non dimenticate che c'è un sito aggiornatissimo, proprio, anzi non proprio, da qualche mese addirittura, www.noigrest.it. Troverete tutte le informazioni del Grest di quest'anno, ma anche dei Grest passati. Ma noi abbiamo subito già un ospite in linea a questa puntata di Fuori di Noi, che ci vuole parlare, diciamo, della sua realtà, ma anche della collaborazione che la sua associazione sta instaurando appunto con la realtà del Noi in prospettiva Grest. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Gianfranco, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Gianfranco. Allora, ti presentiamo un attimino. Sei il presidente di un'associazione che dopo ci spiegherai, già ci siamo sentiti lo scorso anno, potrebbe avere poco a che fare con il Grest, invece sta portando avanti un progetto. Allora, tu sei il presidente dell'Appio di Mogliano, associazione di prevenzione e informazione oncologica. Esatto. Allora, raccontaci un po' le attività che fate, diciamo, durante l'anno. Certo, ma volevo anche dire che non è proprio esatto dire che c'entra poco col Grest, sapendo bene che l'occasione del Grest mette insieme ragazzini, persone in età, per cui è da subito giusto, come usiamo dire noi con uno slogan che abbiamo coniato, vogliamo arrivare prima. Cioè, è una situazione, quella della prevenzione, che non può aspettare il momento appunto che non c'è più la prevenzione ma c'è la malattia presente. Prevenzione, lo sappiamo bene, vuol dire partire da subito, partire prima. Ecco allora che per esempio noi abbiamo instaurato questo rapporto appunto con l'organizzazione di Grest a partire dalla prevenzione di un particolare tumore detto melanoma, sappiamo tutti che è il tumore della pelle. Sì, certo. Ebbene, è un percorso, purtroppo il tumore alla pelle non è che, come dire, si manifesta immediatamente, si manifesta nel corso di molti anni. Ragione per la quale, ecco, il Grest è un'occasione, mettendo insieme bambini durante l'estate, per dare delle indicazioni su come vestirsi, come comportarsi, praticamente dare delle direttive. Quindi, oltre, diciamo, alle indicazioni che durante appunto le attività, le bellissime anche uscite che si possono fare all'interno del Grest, diciamo che l'Apio cerca anche di divulgare un messaggio che è quello di fare attenzione all'esposizione, diciamo, ai raggi solari attraverso una campagna che si concretizza, anzi si è già concretizzata l'anno scorso, ne abbiamo parlato, e quest'anno si rinnova. Con che cosa di concreto, diciamo, per tutti i nostri ragazzi, bambini che partecipano al Grest? Allora io aggiungerei però una cosa, cioè questa iniziativa che noi abbiamo come dire, adottato è partita e fa parte di un piano decennale promosso dalla nostra UISL USL 9 di Treviso, dal Dipartimento Prevenzione. Perché decennale? Perché è un arco lungo durante il quale si fa cultura appunto della prevenzione. Allora noi abbiamo anche distribuito e distribuiremo quest'anno, perché eravamo presenti a Treviso l'altro giorno al lancio dell'iniziativa diocesana. Alla presentazione del Grest, certo. Esatto, e saremmo presenti a chi ce lo chiederà. La nostra proposta come non ha confini di per sé, per cui non è perché noi siamo a Mogliano, operiamo in provincia di Treviso. Per noi appunto non ci sono confini, sappiamo bene che la diocesi per così dire sconfina anche oltre... Certo, altre province, certo. Esatto. Niente, diciamo per esempio che bisogna usare la maglietta, non ci si espone al sole nelle ore centrali della giornata, bisogna usare dei cappellini, ecco dunque il discorso. Abbiamo visto in occasione di alcuni Grest che i bambini giocano all'aperto a capo scoperto, è un grosso errore, ecco, è una delle cose pratiche che noi andiamo a dire in occasione degli incontri che vengono poi disposti con i Grest e con gli operatori, come appunto ci si deve correttamente comportare. Quindi praticamente in poche parole, se qualche Grest appunto fosse adesso in ascolto e vorrebbe, diciamo, portare avanti questa campagna all'interno della propria comunità, basterebbe appunto contattarvi, voi appunto andate in questa, diciamo, in questa parrocchia, in questo Grest, date questa indicazione, fate un incontro e poi consegnate, diciamo, a modi di ricordo ma anche di prevenzione, un cappellino praticamente. Certamente, certamente. Ecco, è chiaro che in pochi minuti non si può dire più di tanto, noi abbiamo un sito nel quale evidentemente, ecco, chi è interessato può approfondire la cosa, e per ogni richiesta ci sia fatta una richiesta scritta a info@apio.it e noi prenderemo poi i giusti contatti. Oppure, visto che appunto eravate anche alla presentazione del Grest, basta mandare anche un info@noitreviso.it qui al Comitato Territoriale di Treviso. Certamente. So che allora avete due cose in comune con il Noi, cioè o meglio una cosa grossa appunto con il Noi, che è quella che anche voi quest'anno festeggiate i 10 anni di vita, diciamo, come associazione, come associazione di prevenzione e formazione oncologica. Gianfranco, una cosa. Sì? So che allora, se nella prima parte voi vi siete dedicati alla prevenzione per quanto riguarda il settore tra virgolette adulto, state adesso portando avanti anche dei progetti con le scuole, ma soprattutto mi pare che anche sia prossimo, a fine di questo mese, un altro grande appuntamento sempre legato alla prevenzione, e state anche qui contattando una realtà che prima voi non incontravate, proprio per diciamo fare prevenzione, ma con un target, un obiettivo, dei destinatari molto diversi, diciamo, dai precedenti vostri destinatari. Può essere così, sì, diciamo, la mia spiegazione, oppure c'è qualcosa che vorresti aggiungere? Ci sarebbe molto da aggiungere. Praticamente, come dire, 10 anni, ecco, sono pochi per aver inquadrato ogni aspetto utile. Certo. È vero, ecco, con la scuola e con le scuole in generale ci sono già state lanciate varie iniziative. Il 31 di maggio, ecco, tu giustamente ricordavi poco fa, qui al Centro Sociale di Mogliano c'è un'iniziativa importante in collaborazione con la locale squadra di rugby, che oltretutto va alla grande. Ah sì, certo, rugby Mogliano. Col liceo continua a essere chiamato scientifico, però come dire, rivolto anche agli altri indirizzi. E pertanto, ecco, è un qualcosa anche questo di aggiuntivo rispetto a quando siamo partiti all'inizio con la sola informazione. Allora, per ricapitolare, www.apio.it, che sto guardando adesso, che è il sito ufficiale, info@apio.it per qualsiasi informazione. Avete anche un ambulatorio e all'interno del sito c'è spiegato anche come, diciamo, effettuare una visita di prevenzione gratuita, leggo qui, con i medici oncologi del CRO di Aviano. Quindi tante belle iniziative, tante iniziative di prevenzione, ma ricordiamo soprattutto quella del GREST, cioè prevenzione contro il melanoma, con appunto il dono del cappellino e un incontro appunto formativo di informazione che l'APIO promuove verso appunto tutti i GREST che possono desiderarlo. Certamente è così, certamente. Benissimo, allora grazie Gianfranco e ci sentiremo appunto magari nelle prossime settimane per vedere qualche sviluppo. Grazie ancora, grazie ciao, anche a voi. Buon grazie, lavoro, grazie. Ciao. Saluti, ciao. Saluti. E dopo questa grande introduzione andiamo con il primo brano musicale. Ho scelto due cantanti italiani che conosciamo tutti e che si sono messi insieme per cantare insieme una grande canzone. La canzone è Inevitabile, Eros Ramazzotti e Giorgia. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. Successo anche era inevitabile che mettessi questa canzone, anche il regista Eddie Daichi era d'accordo. E, beh, insomma, sì, Eddie Daichi è sempre, diciamo, un compagno fedele, mi dà sempre ragione. No, sto scherzando, ecco, grazie Eddie e ti saluto nuovamente. Allora, dopo aver sentito Gianfranco Lovisetto, presidente dell'Appio, che ha appunto rinnovato una collaborazione con noi Treviso per quanto riguarda il Grest per questa campagna di prevenzione contro il melanoma, regalando questi capellini, e potete trovare tutte le informazioni anche sul sito www.apio.it o appunto contattare la segreteria territoriale, continuiamo, diciamo, un po' a fare non più a parlare di Grest, ma a parlare proprio di associazione. All'inizio davo tanti numeri sulla realtà associativa a livello nazionale del noi, adesso andiamo, diciamo, nel territoriale. Nei mesi passati abbiamo contattato i presidenti, diversi presidenti territoriali, abbiamo iniziato con Treviso, Venezia, Vittorio Veneto, Trieste. Adesso è periodo di bilanci, perché entro appunto alla fine del mese si doveva convocare, appunto il mese scorso si doveva convocare l'assemblea per non soltanto dare i numeri, cioè quanti tesserati, quanti incassi e quante spese, ma fare anche una relazione, diciamo, sull'anno appena trascorso, quindi lati positivi, lati negativi, dove investire, dove, diciamo, perfezionare proprio quest'anno che ricorda il decimo anno di vita di noi associazione. E qui vicino a me, ripeto, non ho Anna Zampieri, ahimè, però abbiamo un valido sostituto, Don Bernardo Marconato, presidente di noi Treviso. Ciao. Grazie. Bernardo. Ciao Cristian, buongiorno a tutti. E dovrei dire anche vicepresidente nazionale, non dovrei dire perché lo è veramente, quindi lui ha non soltanto una visione, diciamo, territoriale, ma anche nazionale sulla nostra realtà. Allora, venerdì scorso c'è stato qui a Treviso l'assemblea annuale, e quindi prova un po' a raccontarci come è andato il 2011 per quanto riguarda la realtà di Treviso. Ma positivamente, diciamo, nel complesso, certamente dopo ci sono sempre qualche elemento da calibrare e vedere. Il lavoro è stato fatto ancora sull'ambito formativo, abbiamo investito ancora forze e energie nell'ambito formativo, quindi ancora con i laboratori di formazione, con una serata anche appunto oratorio Che Passione, che nelle puntate forse anche dell'anno scorso avete sentito, e dove appunto abbiamo cercato sempre di aiutare i nostri circoli ad essere persone, educatori dentro l'oratorio, verso i ragazzi, verso i giovani, verso gli adulti, che sappiano appunto impegnare le loro forze, le loro energie per far crescere le persone. E l'ambito formativo è stato appunto un impegno notevole, come poi anche l'ambito ricreativo, che è proprio il nostro ambito, diciamo, del tempo libero, quindi anche con attività di tornei che abbiamo fatto di sport, il Grest naturalmente dopo è uno degli aspetti importanti, e quindi anche la formazione dentro questo ambito, e poi tutte le anche altre attività legate, diciamo, all'ambito mediatico, e quindi anche questa trasmissione, la pagina sulla vita del popolo e altre iniziative così che sono state fatte. Certo, si vorrebbe che la partecipazione fosse un po' anche maggiore, più sentita. Qualche volta bisogna un po' tirare le persone, però è una delle sfide che siamo chiamati, diciamo, anche in futuro a fare. Ecco, questa è la cosa fondamentale, cioè, perché come dicevamo e l'abbiamo detto tante volte anche nelle settimane passate, i numeri ci sono, è una famiglia, quella del noi, enorme, tantissime appunto realtà che hanno certamente il comune, diciamo, la comune idea di che cos'è un oratorio e cosa deve fare all'interno di una comunità un oratorio, però ovviamente hanno tutte delle specificità, persone, volontari che rendono in qualche maniera originale, creativo, diciamo, la propria realtà, ma ovviamente hanno anche tante difficoltà, soprattutto per esempio anche abbiamo sentito la difficoltà magari di coinvolgere persone nuove, sì, di rinnovarsi. Questo forse è diciamo la difficoltà principale, perché il rinnovo è una cosa positiva, basta però che il rinnovo poi non, sì, cancelli il passato, perché il passato è una cosa importante. Diciamo che quest'anno poi c'è stato anche in questo ambito del essere impegnati a rinnovarsi, c'è stato anche il riconoscimento canonico che è venuto dal nostro vescovo, e questo ci impegna proprio ad essere diciamo un'associazione che è ancora più dentro la parrocchia, ma questo vuol dire anche rinnovamento, vuol dire impegno, vuol dire essere più presenti anche nelle singole parrocchie, proprio per anche onorare questo riconoscimento, che non deve essere solo formale ma diventa proprio anche impegno concreto. E parlando di formazione, diciamo che la nostra realtà territoriale si impegna in un corso di formazione, un fine settimana, un weekend. Noi l'abbiamo accennato proprio in maniera schematica la settimana scorsa per quanto riguarda gli animatori del Grest, ma sì, speriamo appunto che sia l'inizio di un weekend che si riproponga anche nel periodo invernale. Puoi un po' illustrarci finalità e dirci qualcosa di più? Sì, oltre ai vari incontri che fanno le singole parrocchie nei vari ambienti delle parrocchie, abbiamo così pensato questi due giorni a Bibione, nella casa che ha la diocesi, che è gestita dalla cooperativa Servire, dove appunto si cerca, attraverso esperienze concrete, aiutare gli animatori a capire come si anima un gruppo, come si guida un gruppo di ragazzi, come ci si mette di fronte a loro, e attraverso appunto questo stare insieme di due giorni, che non è molto, però si dà uno stimolo, un aiuto proprio anche a crescere in questa visione. Sono bravi i nostri animatori, la scorsa settimana ne ho visto un centinaio che si stavano preparando per iniziare appunto poi a giugno il Grest, però hanno anche bisogno di qualche sostegno proprio concreto per capire come si fa, proprio come si gestisce anche l'attività di un gruppo. E noi appunto 19-20 maggio cerchiamo di dare anche questo piccolo, diciamo, sostegno, insieme a tanti altri che magari cui loro partecipano, altre parrocchie partecipano. Le iscrizioni sono aperte fino a quando? Le iscrizioni sono aperte fino a pochi giorni prima dell'inizio dell'attività, che è il 19 maggio, quindi qualche giorno prima si chiude, diciamo, in modo che dopo si abbiano anche le possibilità di organizzarci. Benissimo, allora adesso andiamo con un altro brano musicale e poi concludiamo. She Don Bernardo è sempre insieme con noi e hai ascoltato la canzone appunto dei Coldplay che si chiamava Paradiso. E infatti anche, diciamo, lavorare, impegnarsi nell'associazione degli oratori è un piccolo paradiso, cioè nel senso vedere appunto una famiglia, adulti, giovani, anziani che si mettono insieme per passare del tempo libero e fanno delle belle attività, è un piccolo paradiso in terra. Certo che ci sono tante difficoltà, ci sono state anche il rinnovo, diciamo, del consiglio direttivo di Noi Treviso, come è stato fatto, diciamo, anche il rinnovo a livello nazionale, dove ti ha avuto visto con il nuovo incarico anche di vicepresidente nazionale. Quindi un impegno più faticoso o più gioioso per te, diciamo, in questo momento, come la vedi in prospettiva? Beh, con responsabilità, diciamo, e poi anche però con gioia, perché è una responsabilità che si mette a servizio di tutti i circoli, sapendo, diciamo, che il lavoro molto deve essere fatto anche a livello territoriale, quindi questa responsabilità e questa gioia poi bisogna trasmetterla anche ai nostri circoli. E con questo augurio noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e auguriamo che i nostri volontari nei rispettivi circoli, padronati e oratori abbiano questa responsabilità, si sentano responsabili ma anche, diciamo, contenti di far parte della grande famiglia del Noi e degli oratori. Salutiamo la regia di Eddie Dai, ci salutiamo tutti, ci risentiamo sempre sabato alle 14, domenica alle 12:30, fuori di noi@libero.it oppure un sms 320-614-6964. Ci risentiamo la prossima settimana con Fuori di Noi. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.